Domani alle 19 nel cortile Guido Fanti di Palazzo D'Accursio, all'interno della rassegna Cortile in Comune e della Settimana Europea della Mobilità, verrà presentato il progetto Consegne Etiche, un progetto che coinvolge commercianti, cooperative e anche biblioteche della nostra città che, per raccontare, abbiamo contattato Simona Larghetti di Dinamo, una delle realtà che fa parte appunto di questo progetto. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutte. Allora, che cos'è Consegne Etiche? È un progetto che mette insieme la domanda e l'offerta di un mondo che ha bisogno di consegne, di logistica, quindi commercianti, ma anche realtà diverse come per esempio le biblioteche che fanno girare libri in prestito tra le cittadine e cittadini che non hanno la possibilità di recarsi nelle biblioteche di quartiere, quindi varie tipologie di consegne con imprese cooperative che vogliono dare questo servizio in maniera etica e quindi non solo guardando la sostenibilità ambientale, per cui consegna in bicicletta, ma guardando anche ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, quindi insomma con determinate condizioni contrattuali e tutele assicurative che purtroppo spesso chi lavora nel settore della logistica e delle consegne non si vede riconosciute. Il tema del delivery in questi anni ha sollevato molte proteste da parte dei riders e anche vertenze sindacali. È una risposta, diciamo, in parte pubblica anche questa a questo sistema che spesso ha in sé lo sfruttamento. Sì, la Fondazione Innovazione Urbana ha portato avanti questo progetto di cui si fa, diciamo, in qualche modo coordinatrice, proprio nell'ottica di iniziare a immaginare delle soluzioni a quello che è diventato un problema sociale, quello appunto di tollerare lo sfruttamento perché perpetrato con forme purtroppo nuove, no? Ma che poi vedono condizioni vecchie, cioè lavoratori a ottimo, che se si fanno male non hanno nessuna possibilità di essere indennizzati, che non hanno protezione di nessun tipo e quindi è una condizione in cui una città come quella di Bologna, dove alcuni diritti sono, diciamo, riconosciuti fondamentali, che non si può accettare. Come funzionerà concretamente questo servizio? La Fondazione Innovazione Urbana sta mettendo a punto un sito che è consegnetiche.it, dove chi ha un negozio, chi ha bisogno di consegnare dei prodotti, del materiale, del cibo, può rivolgersi, può inserire la propria richiesta. Poi dietro la piattaforma ci sono alcune realtà cooperative come la nostra, come Dinamo dello Stazione, come Idee in Movimento, che è un'altra cooperativa che fa parte del progetto, che contattano poi il commerciante, la persona che ha fatto la richiesta, per progettare insieme il tipo di consegna. E chiaramente tutte le lavoratrici e lavoratori che sono coinvolti sono, insomma, contrattualizzati e quindi da entrambe le parti si ha la garanzia di lavorare in un contesto appunto etico, e chiaramente anche gli stessi cittadini e cittadine che usufruiscono di questi, insomma, di queste consegne hanno la garanzia di non partecipare a un sistema di sfruttamento. Quindi diciamo che tramite questa piattaforma cerchiamo di mettere insieme questi tre soggetti, appunto chi ne usufruisce, chi consegna e chi ha bisogno di far consegnare. Questo progetto è stato elaborato, vedo, anche con un supporto universitario. Sì, c'è anche Almavico, che è uno dei soggetti che ci sta aiutando, diciamo, a monitorare il progetto, che chiaramente in questa fase è una fase di sperimentazione. Quindi noi inizieremo con alcune realtà che hanno deciso di aderire, quindi abbiamo anche alcuni mercati di quartiere come il mercato Albani, il mercato di Via Vittorio Veneto e altri. Poi dovremo elaborare i dati che escono fuori, perché chiaramente poi il servizio deve essere sostenibile anche per le stesse aziende, per cui la scommessa è quella di distribuire più equamente, per usare un lessico forse un po' desueto ma attuale nella sua funzione, le risorse che questo tipo di commercio mette in campo. Poi, per capirne di più, si può partecipare all'incontro di domani sera. Cosa prevede? Sì, l'incontro prevede la presentazione un po' del progetto da parte di tutti i soggetti, quindi da chi fa le consegne. Ci sarà anche Tommaso Falchi di Riders Union, perché chiaramente adesso, insomma, siamo in pochi, la sperimentazione coinvolge alcuni corrieri in bici. La scommessa è quella di avviare un progetto che in futuro si può allargare e può dare lavoro. Noi siamo già felici che già alcuni nostri clienti volentieri vengono da quel mondo lì, da persone che prima lavoravano per le piattaforme di food delivery, pagati a cottimo, senza abbigliamento adeguato e senza il mezzo messo a disposizione dall'azienda, ecco. Quindi ci sarà appunto anche Riders Union, ci saranno appunto tutti i soggetti che stanno elaborando questo progetto, i commercianti, e penso che sia un momento importante per dire che a Bologna le consegne con sfruttamento non sono benvenute, quindi speriamo anche di sensibilizzare le persone che magari non pensano che dietro a una pizza ci siano questo tipo di storie. Certo, allora io ricordo l'appuntamento domani giovedì 17 settembre alle 19 nel cortile Guido Fanti di Palazzo da Curzio, la presentazione di consegne etiche. Grazie mille Simona. Grazie, buona giornata.